sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.32, tramonterà alle 18.11, mercoledì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Gloria De Ganutti. È nata una nuova rete di imprese agricole caratterizzata da piccole realtà d'eccellenza per la promozione non solo della qualità del prodotto, ma anche di quella del lavoro. Ne parliamo nel servizio di apertura. Per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che ha più di qualche perplessità sulla provenienza e destinazione dei prodotti dell'agricoltura nostrana. Di biosicurezza alimentare si occupa invece la rubrica delle normative, mentre per la storia dell'allevamento bovino in regione avremo un'analisi della qualità dei capi in relazione alle aree di provenienza. Nel Cividalese c'è un campo catalogo di mele e pere del territorio bello quanto un giardino e per la storia della grappa parleremo di quando in Friuli arrivò l'Italia e nacque la grappa furba. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano chiudono la puntata. Terre del Friuli Venezia Giulia è il nome di una neonata associazione di imprese nata per accrescere l'innovazione e per essere competitive sul mercato. Rappresentano piccole imprese che realizzeranno progetti comuni all'insegna della qualità del lavoro e del prodotto. Le pubbliche relazioni della rete le cura Sandra Furlan, cui chiediamo perché e quando siete sorti. Abbiamo valutato le esigenze di ogni singola azienda. Queste sono piccole imprese e dall'unione di loro nasce quella forza che fa sì che possano realizzare progetti più grandi, importanti, che diano loro visibilità, che diano loro efficacia e che diano soprattutto la possibilità di concretizzare quei progetti che nascono dai loro singoli incontri che sono definiti l'officina delle idee. Qual è il filo conduttore che le unisce? La passione per il lavoro che svolgono, la tradizione che viene trasferita da nonno, papà, figlio, questo, la motivazione. Delle eccellenze quindi, facciamo subito qualche esempio senza far torto a nessuno ovviamente. Senza far torto a nessuno perché sono già 21 le aziende che aderiscono alla rete. Vi posso parlare di Sara Devetac, San Michele del Carso. Sara porta avanti il lavoro che il nonno aveva in qualche modo già da tempo realizzato. Sara lavora un pezzetto di terra, un lembo di terra fertile sulle rocce carsi, che lo fa senza mezzi agricoli, con tutta la naturalezza del caso. In Carnia potrei considerare bioapicoltura pura, azienda biologica che è nata proprio dalla passione di Orietta, che è la rappresentante dell'azienda, e dal marito Luca. Allevano api, fanno selezione di api regina della Carnia e miele che è stato anche recentemente premiato a livello nazionale e hanno vinto il premio sul miele di Tiglio come miglior miele d'Italia e di Acacia come secondo miglior miele d'Italia. Nella provincia di Pordenone mi permetto di evidenziare, ma veramente senza far torto a nessuno, l'azienda agricola Ortulì, gestita dal giovane Samuele, che ha colto l'esperienza della mamma, che comunque fa parte della società, che ha un'esperienza ventennale in erboristeria, per avviare un'attività vicino all'abbazia di Sesto Arreghena di coltivazione di piante officinali e aromatiche biologiche che essiccano, che trasformano e che in qualche modo poi vendono come tisane. Obiettivi a breve, medio e lungo periodo della rete? Sono semplici, sono realizzare attività di marketing per se stessi, di formazione per se stessi e per il territorio, di ricerca, di informazione per i rettisti stessi ma anche per i consumatori, attività turistiche, di innovazione e di sviluppo. C'è una cosa che abbiamo pensato assieme ai padrini che hanno battezzato nella giornata di giovedì scorso la rete, che è quella di mettere insieme le ricette che nascono dalla tradizione delle famiglie di ogni singola impresa, costituirne un libro, farne un libro e per ogni ricetta ci sarà un commento legato al territorio, alla cultura di quel territorio, di Giuseppe Ragogna, che è stato il nostro pradino, e dello chef Marco Talamini, che ne darà un commento dal punto di vista ovviamente gastronomico. Siete nati giovedì per mettersi in contatto con voi? Noi abbiamo in realtà un sito che da giovedì è online, che è terrefvg.it, all'interno del quale si possono trovare tutte le informazioni sia di ogni azienda aderente alla rete, sia per poter in qualche modo aderire alla rete se sono interessate le aziende ovviamente del Friuli Venezia Giulia, ma anche i consumatori potranno trovare direttamente i contatti sul territorio. Ormai gran parte delle merci viaggia su gomma, con i tir e lungo le vecchie e nuove strade. Abbiamo saputo scegliere, oltre al mezzo, anche le destinazioni ottimali per i prodotti della nostra terra? Enos Costantini, in questo corsivo, ha qualche dubbio. Il futuro sta nei tir. Questo dato deve essere sicuro, perché l'ho sentito alla RAI. Ebbene, nel 2016, solo sull'autostrada A4 sono transitati 12.600.000 TIR, dove TIR è l'acronimo di Transport International Routier, acronimo che in italiano è erroneamente diventato sinonimo di mezzo di trasporto pesante. Il trend è in salita rapida, perché il 2016 ha visto 750.000 TIR in più rispetto al 2015. Si sente dire che il futuro economico della nostra regione sta nello sviluppo delle grandi infrastrutture. Con questi numeri, e sono 132.000 TIR al giorno solo sulla A4, ci sentiamo autorizzati ad affermare che il futuro è già arrivato, ed è particolarmente roseo. Ma possiamo fare di più, perché esiste una legge della fisica newtoniana secondo la quale più strade si fanno, più aumenta il traffico. Quindi un raggiante avvenire assicurato anche per la nostra agricoltura, che potrà sfruttare mercati anche lontanissimi dove vendere al miglior prezzo mais e soia. Possiamo contare anche su ben 3 aeroporti, Treviso, Venezia e Lubiana, dai quali si involano i nostri executive manager verso compratori ben paganti di quelle 2 eccellenze del nostro territorio. Poi, da luoghi altrettanto lontani, ci arriveranno cosce di suini, persutti crudi e cotti, formaggi con crosta non edibile, sciroppo di glucosio e fruttosio, farine bianche sbiancate, biscotti e fette biscottate, crocchette per cani e per umani, carni già impanate, minestre già preparate, torte da qualche lustro sfornate, pagnotte appena scongelate, sughi rutilanti, salse orripilanti, creme impressionanti, paste coi diserbanti, polpette intossicanti, spezie vescicanti, patatine giganti, tutto con pubblicità petulanti e valori alimentari desolanti. È invero una fortuna che il Friuli sia uscito dal Medioevo circa un secolo fa. Altrimenti, come si usava in quella lunga epoca storica, i comuni attraversati dalle grandi strutture viarie avrebbero imposto pedaggi, dazi, mude e niederlecke, i cui introiti sarebbero andati a migliorare la viabilità locale, prevenire buche nei marciapiedi, a corsi di educazione ambientale e a favorire l'agricoltura locale, nerbo di ogni economia e fondamento della salute alimentare. Eh già, è una bella fortuna che il Medioevo sia finito. Biosicurezza e benessere animale sono 2 concetti sempre più importanti all'interno degli allevamenti. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti di Friuli Venezia Giulia, vediamo quali sono le novità in materia. Sì, alla fine del mese di luglio il Ministero della Salute ha diramato una circolare con la quale ha annunciato l'attivazione del sistema integrato Classifarm. Si tratta di una piattaforma informatica pubblica realizzata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, nella quale confluiscono i dati degli allevamenti provenienti da più fonti ufficiali, come l'anagrafe zootecnica, gli esiti dei controlli delle aziende sanitarie, la ricettazione elettronica dei veterinari. Questa piattaforma prevede anche la partecipazione volontaria degli allevatori in regime di autocontrollo attraverso il coinvolgimento dei veterinari aziendali relativamente alle informazioni sul benessere animale e le misure di biosicurezza. E di tutti questi dati l'amministrazione poi cosa se ne fa? I dati sono convertiti in indicatori numerici che misurano il livello attuale di rischio di un determinato allevamento, fornendo informazioni relative in merito allo stato di salute, al benessere, all'uso di antibiotici e misure di biosicurezza. Il sistema Classifarm consente così la categorizzazione degli allevamenti con due obiettivi principali. Il primo è quello di consentire una riduzione dei controlli ufficiali nelle realtà con minore rischiosità e indirizzarli dove invece c'è maggiore bisogno. Il secondo è quello di fornire all'allevatore un sistema di autovalutazione e di verifica degli eventuali miglioramenti conseguiti in azienda. L'allevatore può inserire da solo i suoi dati nella piattaforma? Le informazioni relative all'autocontrollo sono inserite dal veterinario aziendale su incarico formale dell'allevatore. Il veterinario aziendale si pone così come interfaccia del flusso di informazione ed è tenuto a garantire, in ragione del ruolo e del profilo professionale, la veridicità e la congruità e la solidità dei dati forniti. E la piattaforma è attiva per tutte le specie allevate? Al momento il sistema è stato attivato per rilevare le informazioni relative agli allevamenti suinicoli e avicoli. Successivamente sarà implementato anche per i bovini e altre specie animali. Nella rubrica della pastorizia alla zootecnia dedicata ad altre specie, Sandro Manigon ha sempre ribadito il concetto che la terra simile a sé l'abitator produce. Questa considerazione rimane valida anche per i bovini? Indubbiamente, infatti, veniva evidenziata dalle giurie delle mostre. Vito D'Asio, 1904. Il bestiame locale è e fu pregevole per vecchia rinomanza. Tipo il pino, la varietà prevalente la carnica, che per le maggiori cure, per la felice esposizione soleggiata, per i foraggi buoni si presenta in migliori condizioni. Inoltre, Clauzetto ha nome per suoi prati, per suo bestiame, per taluni distinti allevatori. Uno fra questi riportò premio con un soggetto esposto all'Esposizione Nazionale di Milano nel 1881. Dopo le debite considerazioni sul territorio dei bovini allevati, quali furono i mezzi per avviarsi sulla via del progresso nell'area montana? Forse, considerando lunghi tempi della selezione e di non facile attuazione in un contesto spesso di miseria e sopravvivenza, non si può nutrire e fa formali. I detentori di bestiame costumano, e vi trovano il loro maggior tornaconto, sbarazzarsi presto dei vitelli per tirare partito del latte in tutt'altro modo. 10.000 vitelli scolostrati affluivano nel solo macello di urina ogni anno. Ed essendo improbabile scartare un capo dopo averlo nutrito perché non rispecchiava, diciamo, lo standard di razza, si vide nel meticciamento e nell'incrocio di sostituzione una valida modalità di miglioramento delle popolazioni locali. E quindi? Come in pianura si introdussero diverse razze al fine di individuare la più idonea, ma che determinarono momentaneamente un aumento della variabilità dei caratteri. Nel 1853 vennero importati dalla Valposteria bovini Pusterthaler, detti Brummer, e in considerazione della favorevole opinione degli allevatori, la rappresentanza provinciale inviò speciali commissioni per gli acquisti e premiò soggetti importati. E nel 1880, sempre a cura della deputazione provinciale, vennero introdotti torelli brunalpini in diversi comuni. A conferma all'esposizione di Villa Santina a Tolmezzo nel 1881-82, presenti capi nostrani, Pusterthaler, brunalpini, bellunesi, friulani, olandesi e vari incroci. Oggi Franca Merluzzi ci parla di un giardino del tutto particolare, o meglio, di un campo catalogo di mele e pere nelle valli del Natisone. Bello e prezioso lo è forse come o ancor più di un giardino. È un appezzamento di terreno appena fuori Cividale, dove crescono ben 200 varietà di pero e 100 varietà di melo. Si tratta di una collezione unica e sorprendente, di varietà reperite nel Cividalese da Carlo Petrussi, ex insegnante all'Istituto Agrario di Cividale, esperto di viticoltura, che fra le altre cose si dedica al recupero di una biodiversità frutticola a rischio di estinzione. La collezione di Petrussi dimostra come in un territorio circoscritto si coltivasse un alto numero di varietà. Queste si distinguevano per i tempi diversi di maturazione. Prevaleva la coltivazione di alberi di pere, perché erano considerato un frutto pregiato, ma anche perché maturavano scalarmente. Petrussi sa indicare con precisione le caratteristiche di tutte le varietà. Ad esempio, la pera nota come burro antico matura già all'inizio d'agosto. Poco dopo arriva la pera detta Napoleon, poi la pera Butirra da mangiare subito, mentre il cosiddetto pettoral è invernale, duro come un sasso sull'albero, diventa buono solo con la cottura. A ottobre maturano le mele zeuca, che si conservano tutto l'inverno. Alcune varietà portano i nomi di santi, di San Giovanni, di San Pietro, di Sant'Anna, perché maturano nei giorni vicini alla ricorrenza dei medesimi. Ma c'è anche la pera coscia, la pera belladonna, il pero fico di Udine, l'acurato e le pere ruginose, i Pyrus rusins. Tra le curiosità, la mera melone, che si utilizzava per profumare la biancheria, e la pera anice per il suo sapore. E poi tante altre, la mela precoce consigliata per lo strudel, la mela rosso rubini e la mela muserosse. Altre hanno nomi di persone o del paese di provenienza e va detto che alcune varietà sono state salvate in extremis. Ora vivono in questo campo catalogo che può essere visitato da tutti in località San Giorgio di Rualis di Cividale. Gabriele Caiazza, parlandoci della storia della grappa, oggi arriva agli anni del cambiamento dal dominio austriaco a quello italiano, con tutto quanto ne consegue per la produzione del distillato, che vede la comparsa della cosiddetta grappa furba. La vocazione distillatoria, unita all'alta qualità delle viti friulane e alla grande opportunità di poter mercanteggiare su una piazza estesa quanto i vastissimi domini asburgici, incentivò la distillazione su scala commerciale. Fra l'ultimo ventennio del XVIII secolo e gli inizi del XIX, transitarono dal porto franco di Trieste le acquaviti della Abram Hirschel, della Minerbi e Levi, della fabbrica e raffineria Jelussig e altre ancora, per un flusso d'acqueviti e altri spiriti che all'alba del Novecento toccherà i 700.000 quintali, per quasi tre quarti esportati via terra e poco più di uno via mare. Nell'anno 1900 la sola regione Giulia del litorale imperiale, compresa fra Gorizia e l'Istria, ricavò dalla trappa dell'uva, oltre che da alcune frutta, ben 2.367 ettolitri di acquavite e 1.920 di spirito, prodotti in oltre 3.000 distillerie. L'imponenza non solo apparente di simili dati, trova giustificazione nel fatto che la grappa, oltre a essere impiegata come amaro, cordiale, corroborante, digestivo, tonico, eccetera, poteva essere usata per correggere i vini ritenuti deboli, adulterazione che, essendo acquavite annoverata fra le sostanze innocenti, e cioè non benefiche, non aveva altro inconveniente se non inebriare più facilmente e spessissimo dare il dolor di testa, ma che altrettanto agevolmente era individuabile grazie ad alcune anomalie, fra cui un odore di vino di spirito di vino molto più acuto di quello del vino puro e un sapore molto più caldo di quello del vino schietto. Nel frattempo era cambiato però lo scenario geopolitico. Nel 1866 buona parte dell'odierna regione era stata annessa al Regno d'Italia, che a partire dal capodanno del 1871 abolì le concessioni asburgiche inizialmente tollerate e incominciò a disciplinare il settore, con autorizzazione alle distillerie a tassa giornaliera, licenze di distillazione, e applicando un tributo statale, imposta di fabbricazione, e uno comunale, imposta di consumo o dazio. Svolta che indusse molti appassionati a distillare di nascosto ben prima che la normativa raggiungesse anche gli altri distretti, oggi regionali, nel 1918. Se l'Austria-Ungheria aveva favorito la distillazione domestica, il regime distillatorio sabaudo, seguito alla forzata unificazione d'Italia, determinò la nascita e la crescita della distillazione clandestina, che fu aggettivata variamente, di bar, di bosque, di fossal, di mont, di riul o riul, di stelis o stelutis, di troi e così via. Benché la reale portata della cosa fosse meno imponente di quanto si creda, i ferri del mestiero si nascosero un po' dappertutto, dai fienili alle legnaie, dalle baite agli stavoli, così da poter agire alla prima opportunità, sia pure con la massima prudenza. Inoltre, la grappa poté essere ribattezzata spali o filistrin, per via dell'uso di appendere, cioè di nascondere fuori dalla finestra, le bottiglie contenenti prodotto clandestino o di contrabbando. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora attivo venerdì scorso le contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento tenero buono mercantile tra 19,50 e 19,80, l'orzo tra 20, 20 e 50 e la soia tra 32,30 e 32,80. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 20 centesimi, mentre la soia è diminuita di 4,80 euro. Il quintale. Scambi positivi con discreti affari al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile, la lattuga Trocadero, la cicoria e le tegoline vengono pagate tra 1,20 euro al chilo IVA esclusa, la scarola riccia tra 2,60 e 2,90, le zucchine tra 0,60 e 1 euro, quelle in fiore tra 2,20 e 2,50, le melanzane tonde tra 1,1 e 50, i pomodori italiani in grappolo tra 1,80 e 1,90, i finocchi tra 0,80 e 1,20, il radicchio rosso tondo tra 1,40 e 1,70, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,40 e 1,80, l'uva tra 1,40 e 1,60, le mele golden tra 0,80 e 1,60, i kiwi italiani tra 1,60 e 1,80 e le clementine tra 0,90 e 1,80 euro al chilo. Il settore della pesca è in ripresa, il tempo è favorevole e i prezzi evidenziano un leggero calo. Al mercato della cooperativa pescatori Milano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati tra 18 e 23 euro al chilo al netto dell'IVA, le orate tra 4 e 12, le canocce da 3 a 10, le passere tra 11 e 14, le capesante da 10 a 13. Scambi attivi sui mercati aviconicoli con i polli a terra pagati tra 1,14 e 1,16 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le faraone tra 2,35 e 2,39, le anatre tra 2,30 e 2,34, le uova da 63 a 73 grammi a 13,20 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Marcellino Salvador, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Oggi una depressione fredda si sposta dall'Europa centro-orientale all'Adriatico, interessando anche la nostra regione. Domani affluirà aria più secca da nord-est. In seguito le correnti in quota roteranno dapprima da nord nella giornata di martedì e poi da nord-ovest. Domani avremo quindi cielo sereno poco nuvoloso con bora da moderata sostenuta sulla costa. Le temperature minime si abbasseranno decisamente e saranno sui 5 gradi in pianura e 10 sulla costa. Valori attorno allo zero nelle valli. Le massime col sole saliranno attorno ai 20 gradi in pianura e 18 sulla costa. Martedì la bora cesserà e la giornata inizierà col sereno per concludersi con un cielo velato. Mercoledì ancora cielo sereno poco nuvoloso, ma in quota sofferà vento forte da nord-ovest che potrà interessare localmente anche le valli. Temperature massime attorno ai 18-20 gradi su pianura e costa. A metà settimana sull'Europa occidentale avremo un anticiclone con aria calda e stabile, mentre su quella orientale dei Balcani ci sarà una depressione fredda. Le correnti in quota sulla regione saranno quindi settentrionali e secche, molto umide invece a nord delle Alpi. Pertanto fino a venerdì 26 non avremo piogge e la temperatura sarà nella norma. Nel prossimo fine settimana vi sarà la discesa di una vasta depressione dal nord Europa verso il Mediterraneo, per cui il tempo dovrebbe peggiorare. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffusi dai notiziari radio regionali della RAI e con la trasmissione Buongiorno Regione in TV alle 7.30 del mattino, nonché resi disponibili sul sito www.meteo.fvg.it e con la nuova app anche sulla telefonia mobile. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: anade di nolis, anade di panolis, ovvero quando c'è abbondanza di nocciole c'è abbondanza anche di pannocchie, di mais. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it e potete trovarci sulla pagina Facebook Vita nei Campi e riascoltarci sulla pagina web www.rainews.it/tgr/fvg. Armando Mucchino, Gloria De Ganutti e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?